il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Chi è un attore porno? È uno che fa un mestiere che vorremmo fare tutti perché ha a che fare con belle donne e si diverte, o è una persona che ha una vocazione e una professionalità? E qual è il suo destino quando la carriera finisce? E soprattutto, cosa distingue una persona che passa la storia come attore porno da uno che lo fa per un anno o due? Bene, a questa e a tante altre domande noi proveremo a rispondere raccontando una storia emblematica, quella di John Holmes, il porno attore più famoso del mondo, o comunque il primo porno attore famoso, uno che ha dato un contributo fondamentale alla nascita di un genere cinematografico, però che è stato travolto da quello stesso mondo che lui ha contribuito a far nascere. My name is John C. Holmes. I am something entirely unique. Why unique? Because I've got the biggest cock in the business. La nostra storia parte nel 44, piccolo paesino dell'Ohio, una storia tristemente simile a tante altre. Padre che sparisce prima della nascita, quindi che non viene mai conosciuto dal piccolo John Curtis Holmes. Madre che si risposa con un uomo già padre di figli, è alcolizzato, che picchia, è violento. Quindi la donna che lascia nuovamente il marito, si risposa un'altra volta, hanno altri figli. Insomma, una storia tormentata, al punto che il ragazzino John, quando ha 16 anni, decide di andarsene da casa. Va nell'esercito, passa 3 anni in Germania e al suo ritorno non ha nessuna intenzione di trascorrere la sua vita nella realtà che ha lasciato, e decide di trasferirsi in California, forse perché c'è il sole, ci sono belle ragazze, Hollywood, tanti sogni per un ragazzo di neanche 20 anni, o forse perché ha già capito che qualcosa di diverso rispetto agli altri suoi coetanei ce l'ha. He'd been in California. Era in California da circa un anno quando ci incontrammo. Era appena passato il Natale 1964. Alla fine ci innamorammo e siccome lui non aveva un posto dove stare, venne a vivere con me. Allora era molto giovane, immaturo, ma molto dolce. Ci sposammo 5 mesi più tardi. We were married 5 months later. Questa è Sharon, è una infermiera che John Holmes conosce, sposa nel 64. E sembra che lui abbia trovato l'amore, fa lavori diversi, però non ha ancora bene un'idea di cosa fare nella vita. Una sera però in un locale accade una di quelle scene che scatenano spesso l'ilarità tra amici. Va in bagno, c'è un tizio accanto a lui, i due uomini stanno facendo quello che fanno gli uomini in bagno, ma John Holmes sta 40-50 centimetri più indietro dell'altro, e quindi questo gli dice che forse è il caso di fare qualche foto per farla vedere in giro, perché potrebbe interessare a quelli che fanno quelli che in quei tempi si chiamano i film per scapoli, con delle ragazze in piscina, spogliarelli, insomma niente di che. Negli anni 60 però c'è la rivoluzione sessuale, quindi nel 1969 nasce un nuovo genere che viene chiamato hardcore. Sono i film in cui si vede tutto ciò che normalmente accade solo nell'intimità. I produttori sono a tutti gli effetti dei fuorilegge che entrano e escono di prigione, perché le produzioni devono essere organizzate di nascosto, con il rischio di essere beccati dalla polizia. La situazione viene risolta dal punto di vista legale perché c'è un giovane avvocato di Los Angeles che, assistendo a uno dei tanti produttori cinematografici arrestati per pornografia, si appella al primo emendamento, che è quello che sancisce la libertà di espressione e di parola. In questo modo la realizzazione di film pornografici diventa legale. o quantomeno tollerata, e una svolta, da quel momento partono i primi provini. I first met John in 1969. Ho incontrato John per la prima volta nel 1969. Stavamo facendo dei provini per una rivista e lui arrivò a fine giornata. Magro, dinoccolato, con dei lunghi capelli ricci. Non era proprio un granché. Decisi comunque di fargli qualche foto e poi mandarlo via. Quando però si spogliò e fece vedere quel che madre natura gli aveva dato, gli dissi: ragazzo, diventerai una star. You're gonna be a star. Questo è Bill Amerson, che è il manager di John Holmes. E perché sì, di Holmes non sono gli occhi quelli che si notano. E lui è l'uomo giusto al momento giusto, perché ha una dimensione del suo membro assolutamente inusuale. Si parla di oltre 30 centimetri, si dice addirittura quasi 35, quindi, come dire, essere dotati in un modo che sfiora sì il fenomeno da baraccone, però in qualsiasi caso è diverso dagli altri e sicuramente ti dà grandi prospettive lavorative. Bob Chin è un regista già conosciuto nel settore, scrive una sceneggiatura per un film, crea un personaggio che è fatto su misura, diciamo così, di John Holmes. È un investigatore che si chiama Johnny Wood e il film ha un successo notevole. I gestori del cinema a luci rosse chiedono nuove produzioni per questa stella nascente del porno. Insomma, è vero che è nata una stella che non vincerà l'Oscar, però sicuramente lascerà un segno. Il falco e il gabbiano. La produzione di un film porno è molto veloce, perché basta un paio di giorni per realizzarlo, nel giro di poche settimane già nelle sale, però il pubblico non vuole solo vedere una serie interminabile di scene di sesso, soprattutto in quegli anni, voleva anche, come dire, essere giustificato, e quindi che ci fosse una parvenza di sceneggiatura. Bene, il personaggio dell'investigatore Johnny Wood è perfetto per questo, perché è un investigatore che però in vari frangenti, insomma, si trova in situazioni che poi sfociano in quello che la gente voleva vedere. E il personaggio è lui, Johnny Holmes, John Holmes, che diventa una star, inizia a guadagnare fino a $3,000 al giorno. Questo basta a convincere anche la moglie, che naturalmente all'inizio è riluttante alla professione intrapresa dal marito. Quando arrivano i primi assegni, come molte donne, cambia idea. Ho cercato di convincerlo dall'inizio. Gli dissi: vuoi veramente usare il tuo vero nome? Possiamo inventarcene uno. Ma lui mi rispose: no, non voglio nascondermi. Magari è l'unica possibilità per essere famoso per qualcosa. Credo che fosse il suo modo di comunicare quanto fosse orgoglioso di quel che stava facendo. E qui cominciano i primi problemi, perché lui si autoconvince che sta facendo l'attore, in realtà sta facendo uno specifico genere, il cinema porno, e quindi in qualche modo, per giustificare questa sua convinzione, inizia a costruire attorno a sé un personaggio fatto di bugie, di leggende, di forzature. È una palude di menzogne nella quale ben presto rimane impantanato, e nel corso degli anni a volte dichiara di non avere una moglie, di non avere fratelli o sorelle, mentre invece ne aveva quattro. Insomma, comincia a vivere veramente una vita parallela, galleggia su un mare di frottole nel quale anche lui spesso non riesce più a distinguere la verità. A volte credeva alle stesse cazzate che raccontava. Per creare il personaggio all'inizio ci inventavamo delle storie per la stampa. Per esempio, dicevamo che una volta all'anno andava in Inghilterra, dove una ricca signora pagava $10,000 per una notte con lui. Tutte balle inventate per il pubblico. Un giorno eravamo in barca e parlavamo dei tempi passati e mi dice: ti ricordi quando andavamo in Inghilterra? E io gli rispondo: non sei mai stato in Inghilterra? E lui: ah già. Credeva alle cose che leggeva di lui sui giornali. E poi John Holmes comincia a dimostrare i suoi limiti. Quelli che gli stanno vicini sostengono che non è una persona molto intelligente. E insomma, viene travolto dal personaggio che sta interpretando. Nel 76 conosce una ragazza, si chiama Dawn Schiller. Lei ha solo 15 anni. Riesce a farla entrare nella sua, ma come la chiamiamo, famiglia allargata, una famiglia di cui fa parte anche la moglie, che peraltro è sempre più distante e indifferente, ha un marito che è diventato l'idolo delle donne, ma che probabilmente non è l'uomo che lei sperava di incontrare nella vita. E poi c'è un'altra protagonista che comincia a entrare prepotentemente nella vita di John Holmes, una presenza che lo porterà alla rovina, la droga. John fumava marijuana dal 1972 e la cosa divenne sempre più seria. Qualche anno dopo passò alla cocaina, diventò presto un consumatore abituale e iniziò a fumarla. Insomma, gli anni 60 spesso lasciano due cose in eredità: il sesso libero e la droga. E lui si appropria di entrambe le cose. Sul set dei film circola abitualmente ogni tipo di droga, molti la usano per migliorare le loro prestazioni, altri per dormire, per dimenticare quello che stanno facendo. Insomma, ognuno ha le sue motivazioni, però per John Holmes la cocaina diventa un'ossessione, e quando la cocaina diventa la tua ossessione cominci a fare meno bene il tuo lavoro, produzioni interrotte perché bisogna andare a farsi in un angolo di nascosto, e poi si comincia a spendere tanto. Insomma, a lungo andare questa sua dipendenza comincia a renderlo inaffidabile, la sua carriera ne risente perché i produttori, che hanno tempi serrati soprattutto nel cinema porno, sono stanchi dei suoi capricci, lo chiamano meno e la sua carriera si avvia al declino, i soldi cominciano a diminuire. Non riusciva più a lavorare e a guadagnare abbastanza per mantenere i suoi vizi e così cominciò a rubare. Prima rubacchiava le cose che c'erano in casa e le rivendeva al banco dei pegni. Nel giro di un mese arrivò a spendere $48,000 con la carta di credito, gioielli, televisioni, che poi rivendeva. Era completamente fuori controllo. La moglie, nei suoi racconti, insomma, comincia a rendersi conto che tutto sta precipitando. Per pagarsi la cocaina comincia a frequentare spacciatori, trafficanti di droga. C'è un Eddie Nash per il quale inizia a fare il corriere, che diventa parte integrante della sua vita. E poi pare che lui cominci a costringere la ragazza, la giovane amante, a prostituirsi. Insomma, è un tunnel senza fondo e ci sono persone che lo vedono comportarsi come un vero e proprio pappone che gestisce la sua prostituta. E se è vero che il male genera altro male, bisogna dire che ancora non è successo niente, perché deve ancora accadere un fatto importante e tragico che colpirà John Holmes nel profondo dell'animo, che metterà fine a questa discesa all'inferno. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la epopea e poi la discesa negli abissi del più famoso attore del cinema porno, è un uomo con alcune doti nascoste, diciamo così, che diventa famoso come una rockstar, e come una rockstar entra nel tunnel della droga. Stiamo parlando di John Holmes. Siamo arrivati a quando la cocaina inizia a distruggerlo, cominciano i cali di rendimento sul set, comincia il declino, arriva la droga, arriva la prostituzione, perché lui ha una giovane amante che fa prostituire per avere in cambio della droga dal suo spacciatore di fiducia, questo Eddie Nash, per il quale tra l'altro lui fa il corriere. Insomma, siamo arrivati a un punto di non ritorno e John Holmes sta per compiere l'azione che influenzerà tutto il resto della sua vita. Era mattina presto, tutto tranquillo per le strade. John venne a bussare alla porta, era coperto di sangue. Mi chiese di entrare e io dissi: «Cos'è successo?» Lui rispose: «Ho appena assistito ad un omicidio». 1 luglio 1981, a Wonderland Avenue abitano quattro amici, se così si può dire, di John Holmes, quattro compagni di merende, persone con cui l'attore divide la passione per la droga. Questi convincono Holmes a lasciare aperta la porta di servizio della casa di Eddie Nash, di cui lui ha la chiave. Arriva notte, i quattro rubano un grande quantitativo di droga, lo dividono con John Holmes, che torna a casa, ne prova un po', festeggia con l'amante. Insomma, dopo poche ore si trova una pistola puntata alla tempia, perché Nash ha anche lui degli amici, anzi dei sicari, lo portano a casa dei quattro complici. in Wonderland Avenue. Cosa accade in quella casa non è mai stato chiarito fino in fondo. La verità è che i quattro vengono lasciati per terra, morti probabilmente dai sicari di Nash, oppure addirittura dallo stesso John Holmes, costretto a farli fuori sotto minaccia di una pistola. Il delitto passa alla storia come la strage di Wonderland Avenue. Passano due giorni, la polizia ferma John Holmes per interrogarlo, perché lui è il maggiore indiziato. Disse che doveva scappare, che lo cercava la polizia, ma soprattutto lo cercava Eddie Nash. Scappò verso la Florida. Voleva sparire. E anche il racconto della moglie si fa concitato, perché bisogna scappare, lui vaga per gli Stati Uniti e per sfuggire alla polizia, all'FBI, ai sicari di Nash. Immaginate che tipo di situazione per uno che pochi mesi prima era una rockstar. Nel dicembre dell'81 viene arrestato, processo, verrà assolto per insufficienza di prove e Nash verrà incriminato. Per John Holmes sarà per un attimo la fine di un incubo, una tranquillità che durerà veramente poco. John Holmes torna a fare l'attore, ma vivendo il suo declino. Intanto i tempi sono cambiati, da qualche anno si parla di AIDS. Lui si sottopone al test, al quale questa volta risulta negativo, così riprende la sua attività. Dopo sei mesi viene ripetuto il test e questa volta la sentenza è definitiva. John Holmes è positivo all'HIV. Lui ha dichiarato di aver avuto circa 14.000 donne, certo non è uno che non racconta bugie, però di certo non ne ha avute pochissime. Comunque, anche se ci si assesta su un numero tipo facciamo 3.000, e fino a quel momento non ha avuto mai problemi di malattie venere, però si sa, intanto l'AIDS arriva in maniera subdola anche un po' dopo. E poi ha cominciato a partecipare anche a dei film gay nel quale non è stata usata nessun tipo di precauzione. E in più si è fatto anche un bel po' di tempo in carcere, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta su dove John Holmes possa avere contratto l'AIDS. Ero con John dal dottore. Gli disse che era positivo all'HIV e gli spiegò che avrebbe potuto vivere altri 15-20 anni se avesse cambiato stile di vita. Basta droga, sigarette e alcol. Da sostituire con una vita sana e con tante vitamine. John reagì a modo suo. Raddoppiò quel che beveva, continuò a drogarsi, si mise a fumare 5 pacchetti al giorno e a bere whisky. Non gli importava più di niente. E nell'ambiente viene fatta circolare, come spesso accade in quei casi, la notizia che lui sta lottando contro il cancro, quindi ecco perché il suo fisico è debilitato. Gli impegni cinematografici però diventano sempre più rari. Poi, se si venisse a sapere che la stella più famosa del cinema porno è malata di AIDS, le ripercussioni su tutto il settore sarebbero devastanti. E quindi altre balle su balle che si autoalimentano, creando ancora una volta una vita parallela a quella reale. Però l'evidenza della malattia fa crescere i dubbi. A un certo punto le richieste da parte dei registi si interrompono e lui vola in Italia e recita un film con Ilona Staller senza dichiarare la sua malattia. Un bel rischio che Ilona Staller ha dichiarato di aver evitato solo grazie alla fortuna. Il 13 marzo 1988 John Holmes muore in un letto d'ospedale in completa solitudine, ha solo 43 anni. Il suo corpo verrà cremato, le ceneri disperse nell'Oceano Pacifico e il vuoto che si è creato attorno a lui non è dovuto all'AIDS e ai pregiudizi che si porta dietro, ma alle conseguenze di una vita condotta con molto egoismo, sempre dentro e fuori la legalità. La causa principale di questo è stata la droga, ma di certo lui non aveva saputo farsi amare dagli altri. Ma a questo punto ho bisogno di un esperto al mio fianco per chiedergli qualcuna delle domande che sono emerse da questa trasmissione fino adesso, e quindi mi è venuto in mente, come è venuto in mente sicuramente anche a voi, Rocco Siffredi. Buongiorno. Ciao Enrico, buongiorno. Come va? Tutto bene? Mazza che voce che hai, potresti fare quasi l'attore porno. Parliamone, perché no? grazie, come stai? Bene, senti, noi abbiamo raccontato oggi una storia significativa, interessante, anche un po' triste, soprattutto nel finale, che è la storia di John Holmes, che viene da un momento, cioè, degli anni precedenti al tuo, no? Quindi il porno quello che era finalizzato soltanto al cinema, quello in cui gli attori erano quasi tutti magari bruttini perché venivano scelti solo in base alle prestazioni sessuali, cioè le donne erano belle, gli uomini erano poco interessanti, tranne che forse per qualche aspetto. È cambiato molto quel mondo lì. Ma guarda, John Holmes effettivamente l'ho conosciuto a Roma di passaggio durante le riprese di Banana Cioccolato con Cicciolina. Sì. Io ero un newcomer, sono andato lì con Christopher Clark, che invece è nel film, ma solo ed esclusivamente per conoscere questo attore che anche all'epoca era John Holmes, era il divo per eccellenza. Tu pensa che lui utilizzava di contratto due Flutter Girl, che oggi non esistono più. Sì. Spieghiamo per il pubblico cosa sono le Flutter Girl. Sono quelle che aiutano, diciamo, il riscaldamento dell'attore, no? Giusto? Sì, all'epoca sì, qualcuno se lo poteva permettere, ma noi, i francesi specialmente, dicevano subito: chi utilizza le Flutter non sarà mai un vero professionista. Quindi io ho preferito quella metodologia, che devo dire che è la migliore, perché ti abitui ad avere l'erezione per conto tuo. Esatto. anche se una ragazza non ti aiuta, tu sai che ce la farai. Ma lì mi sa che c'era qualche problemino nel caso di John Holmes. Ma guarda, lui faceva veramente paura, aveva un attrezzo veramente pazzesco, grandissimo, cioè quattro mani avanzava un pezzo. E devo dire che sì, è cambiato tutto, non è cambiato solo il periodo, gli attori, è cambiato tutto, il mondo è diventato veloce e la nostra industria è diventata una fabbrica. E devo dirti che all'epoca gli attori facevano quasi si lamentavano per non fare abbastanza scene, perché c'era troppa trama e si scopava poco. Certo. Adesso invece è il contrario. Cioè. E devo dire che io sono venuto da quell'ambito là, sono cresciuto con quel mondo lì, però ho sempre fatto questo lavoro per 30 anni, per la passione, per la donna, per il sesso, per la sperimentazione, e non ho mai guardato l'orologio. Quando vedo un attore o un'attrice che mi dice quanto tempo dura o quanto manca, mi incazzo. Oggi diciamo che se tu mi chiedi, preferisco prima, per quello che erano i miei gusti. Sì. Oggi mi piace la ragazza di 18 anni che arriva sul set, dico 18 perché da quell'età si inizia, certo, che arriva sul set e che già ne sa più di quella di 40 di 30 anni fa. È vero. Questo mi piace, la ragazza di oggi è molto più estroversa, molto più pronta, anzi vuole subito provare a sorprenderti. Poi c'è da dire che sono... Sì, ma questo anche chi fa il cantante può confermare questa cosa. Poi posso dirti che essendo tutte cresciute con YouPorn, la nuova generazione è cresciuta con la pornografia, purtroppo sono tutte uguali. Prendi un italiano, una francese, una russa, fanno tutte la stessa cosa allo stesso modo. Anche la mitica Valentina Nappi, che io 3 anni fa ho praticamente conosciuto, abbiamo fatto un casting ed è venuta nel mondo dell'arte, oggi è diventata una superstar in America. Quando è arrivata da me è partita subito 3.000 con queste cose, alla quale io l'ho fermata e gli ho detto: senti un attimo, ma perché non lo fai in maniera normale che ti viene meglio? Tutto quello che stai facendo è assolutamente, lo apprezzo, ma non lo stai vivendo, vedo che non lo vivi. Certo. Ma Rocco, ma io vedo che tutte lo fanno così, lo so, però esiste anche il vecchio. Io sono il cultore vero del sesso, del vecchio, del nuovo e del futuro. Io cerco di adeguarmi a quello che è la nuova generazione. Senti, a livello di precauzioni, oggi è un mondo più sicuro, parlo di, perché la fine di John Holmes è stata l'AIDS. Ogni 2 settimane, massimo 3, dipende dal paese, Praga, Budapest, analisi. San Pietroburgo, analisi full, complete, di HIV, epatite, gonorrea, sifilide e clamidia. Queste sono le 5 cose, fatte ogni 3 settimane. In America cambia un po', perché in America hanno avuto più casi di sieropositivi, più casi di sieropositivi, e quindi hanno deciso di fare il DNA. Lì può stare, sono dei laboratori attrezzati, ti fanno il DNA oggi, tu domani mattina hai i risultati, tu sai se oggi hai qualcosa, non c'è incubazione che tenga. Da noi purtroppo c'è un una finestra di tre settimane ai 2 mesi. Però se lo fai sempre ogni 3 settimane, prima o poi. Cioè, sì, però diciamo che le persone con cui lavoriamo, almeno gli uomini, sono sempre stessi, ma dal punto di vista femminile è vero che c'è un ricarico molto forte. La cosa diversa è che queste ragazze dopo 2 mesi che rifanno, fanno 3-4 test, vede che sono sane, però c'è un rischio. Certo. Senti, Rocco, l'ultima domanda: perché un attore porno diventa una star e un altro no? Semplicemente io oserei dire passione, non so quanti mi hanno detto. Però passione, in teoria. In realtà, nel periodo di John Holmes era famoso veramente per lui, per il suo attrezzo. Al contrario, c'è un signore che si chiamava John Leslie, con un pisello completamente normale, chiamiamoli veramente sulla misura normale, perché io oltretutto ci ho lavorato, non so, e ti dico, John Leslie era l'attore per eccellenza, carisma, è il primo che iniziò a parlare con l'attrice mentre faceva sesso, non lo faceva nessuno, parlava, guardava sempre negli occhi la donna, la faceva sognare, ha vinto sulle serate degli Oscar, su 10 Oscar, 8 lui e 2 John Holmes. Cioè, io quando utilizzo un attore, lo riutilizzo, un'attrice, all'ennesima potenza, in cui ti continua perché mi hanno preso, per prendermi, voglio vedere veramente un'anima, una passione. Cioè, devi dargli il motore all'attrezzo che hai. Non è solo il fatto che ce l'hai e vado solo. Non esiste. Grazie Rocco, sei stato perfetto, come grazie. Sempre. Grazie. Mi ha fatto molto piacere parlarti come sempre, grande. Se vuoi fare quella cosa dell'attore, io sono sempre a tutti. Va bene, mi presenterò per il provino. Preparato. Ciao, grandissimo. Ciao. Ciao, grande. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Una storia che avrebbe potuto essere stata scritta diversamente se solo John Holmes avesse saputo amministrare quel patrimonio che gli ha donato la natura e avesse saputo essere una persona diversa, come tanti attori hard sono, Rocco Siffredi per esempio, Franco Trentalance, insomma ci sono tante persone che fanno e hanno fatto questo mestiere con grande classe, spirito, autoironia e dignità. Non è il caso del nostro protagonista di oggi, John Holmes, che ha dato dei colpi d'ala che l'hanno fatto volare sempre più in basso. A proposito di John Holmes, mi viene in mente il nostro regista Luigi Speciale, che saluto, e se volete interagire con me sul Falco il Gabbiano @radio24.it, o insomma se volete trovarmi lo potete fare sui nostri social. Ricordate che c'è il podcast per risentire le puntate che vi siete persi, e se volete sapete che mi trovate. Ciao, a lunedì.